va, tutta sull'arca, tutto a posto. Papà, sull'arca, tutto a posto. Sono arrivati tutti quanti, le coppie di animali, pinguini, tutti pronti. Quando volete possiamo partire, papà. Bella giornata oggi, papà, ci stanno sola. Non ci stava anche una nuvola. Sicuro che oggi ve lo fate? No, perché mi sono prontato, comunque sono solo gli animali, chiamate perché tutti a posto. Indietro! Non c'è posto per gli empi in questo luogo di giustizia! Solo la mia famiglia! Sono vostro figlio, papà, sono vostro figlio. Brutta cosa, vicchiai, papà. Indietro! Non c'è posto per gli empi in questo luogo di giustizia! Solo gli animali! Sono gli animali, scusate, che sono, che non vedete le orecchie, cose, tengo tutte cose. Un animale? Sono un animale, devo salire. E che animale sareste? Cioè, sono un gufo. Già si sanno. No, ho detto un gufo. No, sono una tigre. Sono arrivate. Un cerbiatto. Ci stanno. Un rinoceronte. Ci sono. Un minollo. Un minollo? Cioè, sono un minollo. E che animale sarebbe questo minollo? Cioè, un minollo è... Cioè, sono un minollo. Cioè, un minollo, sapete, deve salire. Che aspettate un momento, aspettate. Cam! Papà, quando volete possiamo partire. Cam, state un momento, zitti, per cortesia. Cam, sono già arrivati i minolli. I minolli? Già ci stanno. Già ci stanno. Già ci stanno. I minolli. I minolli. I rostocchi. Già ci stanno. Già ci stanno. Secondo me chi si fa un broglio, Mosè, guarda. Non sono Mosè! Chiamatemi patriarca! Patriarca, mio amico, vi volevo offendere, figuratevi, queste tre persone rispettabilissime che fatemi salire. No, non è possibile, non si può fare. Ma che cosa? Allora non tiene possibilità di rimanere per te. Ma non si può fare, non è possibile. Ma voi mi fate salire, tanto che non posso in più, un posso in meno. Ma ci abbiamo la nave tutta piena di animali, zebre, coccodrilli, leoni, scoiattoli. No, scusate, ma no, perché mi voglio intromettere, ma a me non me ne importa proprio. Vi portate pure i coccodrilli? Ah, che si capisce! Fosse a voi i coccodrilli li lasciasse per terra. Un coccodrillo mica un animale che... Dice, vabbè, mi porto un coccodrillo, chi le sta là? Che un coccodrillo è un animale che... Cioè, proprio venendo qua, ho letto sul giornale, c'è scritto coccodrillo mangia patriarca. Là ci si va a fotografia, si va a fotografia lo patriarca, no, per offendere a voi, non piace rom o doppie voi, che se la mangiate tutti. Se arriva a Barbie, capillo, un coccodrillo non lo fa schifo niente. Ma mangiano come gli animali, guardate, una cosa straordinaria, e stavano in buoni rapporti. Non è che rischiano, non si potevano vedere, no, uscivano insieme, appena si è girato, si è mangiato un coccodrillo, è fatto proprio che ha lasciato per terra un coccodrillo, guardate. Non è possibile! L'ordine è salvare tutti gli animali, me compreso e la mia famiglia. E per forza. Voi facete tutta una cosa in famiglia, ma perché proprio voi? Ecco, perché proprio voi? Perché? Perché è giusto! Grazie, tu ti salvo pure tu che sia figlio, ma io dico perché proprio lui e noi... Perché è giusto! È giusto, ma perché io se no un altro... Perché è giusto! Ma io sono... Io sono il giusto! Io sono giusto e mi devo salvare! Ma mica ce l'ho con voi, patriarca, figuratevi, io a chi si non lo supporto. Verrà la fine del mondo in 80 giorni! 40, papà, 40 giorni! Che chi lo gira del mondo in 80 giorni? No, scusate, guarda, ma non fate così. Mi è stato detto, salva gli animali, salva la tua famiglia, salva te stesso! Me non sto dicendo. Se niente. Non mi è stato detto niente di voi, e allora vuol dire che... Allora vuol dire che parlate? Oh, vuol dire che voi proprio, Vuol dire che voi proprio, No, se tenete qualcosa a ricere, riuscite. Adesso che deve venire di lui, nessuno ne sa niente. Tutti quanti buoni, tutti quanti bravi siete stati. Avete fatto quelle schifezze, avete fatto. Le avete fatte le schifezze. Uomini, donne, non si capiva più niente, non si capiva. Patriarca, e pure voi! Pure voi! Pure voi! figlio patriarca, ti salvavo lo stesso. No, sono la mia famiglia. No, no, patriarca, scusate, chi si salvava lo stesso? Che quello che corno che te ne si imbattava insieme ai cerchi. No! Fatemi salire. No, non si può. Ma che cosa? Non lo so. Ma non è possibile. Ma è mica la fine del mondo, in fondo, non lo so. Non è possibile, non si può. Fatemi salire, per piacere, patriarca. Io sono una brava persona, voi siete una brava persona. Fatemi salire. Siete una brava persona. Voi siete fidanzati. Voi? Voi siete fidanzati. Cioè, io... Se indovino mi fate salire, però, ecco. Siete fidanzati, sì o no? Aspetto una risposta. Voi rubate? No. Voi rubate? No, vi giuro, patriarca, mai. Guarda, ho avuto occasione, cose mai rubate. Baciate con gli occhi chiusi. È peccato. Si capisce. No, sempre con gli occhi aperti. Vi toccate? No, mai, vi giuro, da sempre con gli occhi chiusi. Gli occhi chiusi! No, gli occhi aperti, mo sei. Non sono, mo sei, chiamatemi patriarca. Patriarca, sempre con gli occhi aperti e le mani così non mi tocco mai. Con chi ve la fa? Con chi ve la fa? Con chi ve la fa? Peccato. Di meglio. Un momento, mo sei. Non sono, mo sei. Mo sei, sono tutto sudato. Un momento, con chi ve la fa? Tutto sudato. Con calma, con chi ve la fa? Con calma. Con chi ve la fa? Niente, siamo tutti giovani, tutti amici. Sapete, siamo tutti quanti in una grombricola che ci abbiamo, no? Siamo tutti quanti insieme, ci vediamo, loro a volte dicono andiamo a ballare. No, io mai, patriarca. Vi giuro mai, guarda, sono sempre loro, io dico no, andate voi. Io preferisco andare a dormire perché la mattina mi sveglio presto e loro vanno a ballare, loro. No. Allora niente, però sono bravi giovani, devo dire la verità, tutti bravi ragazzi, sono tutti ragazzi. Ci stanno pure le ragazze, ci stanno! E allora voi con tutte le ragazze! Non mica con tutte le ragazze! Che... Ah! Con una! Con la vostra fidanzata! Solo con la mia fidanzata. Insomma, voi con la vostra fidanzata, normalmente. Insieme. Insieme. Insieme! Insieme, mica insieme, con insieme, no! Insieme così! C'è una cosa qui, insieme, ma vi giuro, è sempre così. Con la vostra fidanzata, normalmente, i normali rapporti, insieme. E voi, con la vostra fidanzata, normalmente, anche in quei giorni. Dico voi, con la vostra fidanzata, normalmente, anche in quei giorni. Cioè, in quei giorni... voglio essere sincero con voi, vi dico tutti i giorni, poi scegliete voi quale volete. Dunque, il lunedì... Ma che lunedì? Sì o no? Avete detto sì? No, ancora non ho risposto. Ma allora volete dire no? Un momento. Insomma, sì o no? Allora sì. Allora venga la fine del mondo in 80 giorni. 40, papà, 40 giorni. No, siete un malvagio, papà, un empio. Non vi faccio salire. Non vi facciamo salire. Vi lascio giù. Vi lasciamo giù. Chiedete bene, non fa niente. Voi siete giù, stiate in coppana. Ma sto qua, non fa niente. Però il camino vengo bene, e mi mangio, bevo, e fermo 1, 2, 5, 10. 10? Veramente? 10, una volta 40. 40 fermo? Ma voi solo 40? 40. E beh, tenete le fotografie. No. Facciamo una cosa. Salite, raccontate tutto dall'inizio. Tanto abbiamo 80 giorni di tempo. 40 giorni. Il giro del mondo. Ma non fate salire.